c'è qualcuno? Io sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Non c'è nessuno, cambio, cambio, cambio. Aspetto Claudio, Claudio, Claudio, Claudio, quello che si fa chiamare Claudio, Claudio Sparviero, cambio. Ricarica iniziata, cambio. Ciao a tu, buongiorno. Buonasera, cosa vi ti faccio mari? Ora, ora, buonasera. Aspetto, popolo. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ola, ola, ola, cane 10, ola, ola, ola, ola, cane 10, cambio, cambio, cambio. Attenzione, Claudio, Claudio Sparviero, cambio. Sì, mi permette. Sono 18, tutto va bene. Sono quasi 18 e tutto va bene. Non eri così forte. E anche un QRM alto qua. c'è un imbecille spagnolo, cosa è, che ti manda in abbattimento. Cambio! Ma che c'è un corrodone, fa pendente. No. Oi, oi, oi. Ciao, ci sentiamo più tardi. Ciao, devo uscire un attimino, ciao. Ciao, ciao, G. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Hola. Hola, hola. Avanti, chi... Ciao, sono io, sono. Ti sentiamo dopo che sto preparando la cena, ok? Ehi, Andrew. Ma lo sai che non sei uscito all'inizio? Sì, lo so, me ne accorgo la modulazione, ok, dai. Beh, ce la risentiamo dopo, ciao. Con che apparecchio sei? Con il coca. È citofonica la voce, ma... No, è citofonica. Non è la tua voce, dai. Vabbè, comunque già va bene lo stesso. Oh, sempre questo l'ho utilizzato, per le cose. Va bene, ragazzi, ci sentiamo, ciao, che vado a fare la cena, ciao. Ciao. Chi è, amore? Buonasera, buon pomeriggio, qua a San Pedro, al Golfo della Cinara, ciao, doppio room. Vabbè, San Pedro, come va? Tutto bene? E insomma, diciamo, potrebbe andare meglio, ma... Insomma, il tempo è quello che è, tra umidità e... cosa ne so, e non so più cosa dici, mia sera voglio mangiare due kiwi, un po' di frutta, diciamo, là, e niente, ero in camera, perché qua nel salone c'era freddo, quindi mi ho acceso la stufa adesso speriamo scaldi un pochino. E niente, e poi vediamo come va, dalla lì o dalla là. Hai visto su Facebook la stazioncina? Ehia, bella, mi piace, soprattutto quella più vintage, mi sembra più vintage l'altra del Galaxy. Sì, quello è Ruiz, è una chicca degli apparecchi americani, Ruiz. Ehia, ma quello fa anche FM. No, c'è AM e banda laterale, e praticamente ha 40 canali su tutte le bande, dai. E praticamente ha anche l'orologio a scelta, se vuoi mettere il numero di canali metti il numero di canali, se no premi un pulsante e ti dà l'orologio, c'è la sveglia che ti sveglia la mattina con l'apparecchio. Ehi, Togue, bello, deve essere quello... quartato dentro, tutto quartato all'interno. Mi è venuto 300 euro questo apparecchio. Ma è bello, però se funziona è bello. Che funziona? Lo vuoi sentire? Se non capito te lo faccio sentire. Intanto più o meno, non so, mi avrà una modulazione forte, chiara e micidiale. Ho sentito altri l'altro giorno così, un po' diversi, però simile a quello. Tu lavora 60 anni, lavora. Questo è già un grafico, c'ha i laterali di legno, vero? E poi la parte superiore che è lamiera grossa. Ma è bello, fatto bene, non c'è un grafico, nuovo, io l'ho comprato da un collezionista che l'ha comprato nuovo e l'ha messo in vetrina, non l'ha mai usato. L'ho comprato perché in questo ufficio stava diventando un radioamatore e voleva liberarsi un po' di spazio. E ce l'ha venduto, ma dice meno di 300 non lo vedo perché io l'ho pagato di più ed è nuovo, non l'ho mai usato. Ehi, AKK, no, è bello, quello è antico, c'è un minimo 50 anni quella radio lì. Poi c'ha due attacchi, uno per andare a 220 e uno per andare a 12 volt. Eia, già qui primo video. Ma lì si può fare pure la 2V, perché tanto lo metti a 12 volt e ci vuole sempre l'alimentatore che abbia minimo un 30 ampere. Penso, Eh sì. No, ma io uso a 2,20, ma uso attacchi a 12, uso attacchi a 12. Tanto ci dato un filo dietro, nello tutto quanto faccio bene, e lo uso a 2,20, quella da 12, abbiamo messo il filo nello tutto quanto arrotolato bene. E via, andave, andave. Oggi ciò, guarda, non so, vai sulle ginocchia e i piedi per fare le misure spaventi. Non lo so se questo sbalzo tecnico strano che sta per arrivare, però mi commussureggia di tutto, ti cerco di rimanere tranquillo e tu mi fai nervosire. Tocca chiamare il subitino di carriera, quindi su gas di fratta americana che vanno a relazione. Vai in un lavoro in un sistema già. E non è basta perché mi sia. Guarda, è una cosa indescrivibile. Comprato una gambetta nuova ai pappagallini, ai cucurini. E è uguale alla mia, tu l'hai presa da Amazon quella. No, da te me l'ho comprata, stavo guardando una cosa e mi è uscita questa gabbietta. E avevo 20 euro di sconto, praticamente costava 38,90 euro, io l'ho pagata alla fine con le 20 euro di sconto, 18,90 euro. E l'ho comprata nera, perché bianca non c'era. E me l'ho fatta montare, piazzare da mio fratello da Davide, che a me mi viene male, no? L'ha portata giù in cucina e l'ha tutta salvata. Con tutti i giochini, tutte le mangiatuie, c'è il cassetto estraibile per pulire il fondo. E ti dico che mi ha soddisfatto quella gabbietta. Va bene, perché gli ho messo la casetta di legno che risulta in alto. E sembra che sono anche abbastanza tranquilli, più della gabbietta orizzontale, tipo quella da cova dei canarini, là. No, il pappagallo la devo avere alta, io ce l'ho uguale, però la mia è su verde acqua. Cappa, no, già sto via. Gli ho messo l'osso della seppia dentro, perché sennò si mangiano le stecche, diciamo. Ma che maniosa di sarà femmina mia, di sacchere se femmina. Ed è un bel tipo dominante. Un bel di volte sta giocando con lui, no? Ma avuti la stare in display e rubria. E mi ha baita di più, ma tu fatta lì. Ma baita, sta lì. E niente. E un po' di selvatico ce l'avevo sempre. Oggi per dire, io li ho liberati. Si è accovacciato uno dei miei pappagalli e l'ho accarezzato e si faceva accarezzare tranquillamente, come se fosse un cagnolino. Si faceva accarezzare. A volte vai, li metti lì e subito si allontana. Non comprendi come ti sono. Un po' di selvatico ce l'hanno sempre, però solo quando vogliono loro si fanno coccolare. Abbascia tutto gatto, stacca il modulo che è attaccato che sia incomprensibile. C'hai ragione, scusa. Ero prima in mondo laterale, non è per questo. Ho detto già, il mio è sempre fermo, non mangia, non parla, niente. È sempre fermo e secco dopo un visto. Paolo. È malissimo pararotti, Silvio, basta. Pappagalli. E allora già. Tutto ok, dai. Non ci possiamo lamentare. Quando a peggio meglio così, fra. Mi ero con Giare, stavo parlando di uccelli. Perché a Giare gli piacciono gli uccelli. Lo so, che c'ha. Che anche lui è amante degli uccelli. Vabbè. Allora tu Gianni, campi. Ehi, no, perché gli ho comprato la gabbietta nuova. E niente, gli ho messo un guantino di plastica, non fa figliare. Certo, al max io ero abbastanza tranquillo. La bella era ma giusto una bustigliata, un mignolino della mano, e se non giù visto che il lupo e tutti i tanti di marziani farei niente. Non santo, ma non so tutto. Oh, ancora mi dori che stanno curiosi di dirmi. E altri miei bobbi, a Baria, una denaria di una riuscita a Baria, che mi ha fatto morto. Quando ti beccare i miei, si staccare lo dito. Ogni volta arriva a zero d'Italia, allucinato. Ma solitamente i miei sono mansueti, però a volte hanno un po' di selvatti, che ogni tanto gli viene questo coso che ti attacca. Magari, ho già, magari loro lo fanno giocando e non si rendono conto. No, no, lo fanno con aggressività, ti si dirà in alto, gruppi. Non voglio poi dire che le tocca le maschette del mangime quando le devo pulire, le devo lavare, noi le apro la gabbia e tutto quanto li faccio uscire. Li lascio anche mezz'ora, un'ora fuori. E mentre io pulisco la roba, poi una volta che si trova la gabbia se ne entrano da soli, capito? Li faccio il richiamo con un fischio e loro se ne entrano dentro. Li faccio la carica e loro entrano dentro. Mi hai abituato, sì, mi hai abituato. Avanti già. Eia. Sono un po' selvaggi, diciamo ancora, però già sono ambientati perché ce li ho a loro. Siamo in marzo quasi, li avevo presi in forse fine ottobre, fine di novembre, no. No, metà ottobre me li hanno portati da Porto Torres, da un allevamento, lì c'è una via Uiuia. E quindi un amico me li ha portati da Porto Torres. E sono curioso che non fanno tutto quel baccano che fanno i canarini, anche se i canarini hanno un cinguettio migliore, diciamo, un canto bello, perché la mattina si svegliano. Si buoni a 50 anni, da buoni di si buoni di più a Moreggiani, hanno un servizio diverso. E sono bene poi qua nel salone che fanno compagnia là. No, i canarini un po' me ne sono pentito di averli dati, perché sembrava una foresta a casa mia. Io ne avrò avuto una trentina di canarini. Guarda, mi facevano figli a tutto andare, me li vendevo, ma tanto per farti soldi per il mangiare. Ma va bene così, ma è poco, perché magari mi regali anche qualche coppietta, ti fa piacere, anche. Magari chi ti da buttare su una cosa. E già è bello, già è bello. Io per esempio, quando facevano i figli, per esempio una coppia e l'altra coppia, poi mettevo il figlio di uno e il figlio dell'altro, a prescindere maschio o femmina, perché sennò la genealogia non usciva mai bene, capito? Ah, gli ho regalati a quella di fronte una coppia per la nipote, perché lei, quando può dire ammazzare il porcetto, mi già, proprio un peso di porcetto, che ne è troppo, per noi siamo in due. E me ne da giù un pezzo, da voi mi arrega frutta, verdura, di tutto di più. Quindi una mano alla volta. E infatti, beh, io si dice quelli gente. Adesso, quando è, no, ieri, avanti ieri, per esempio, è venuto un cugino di babbo, che loro sono cacciatori, che ha regato una mezza berra di una spalla di cinghiale, e ha fatto le bistecchine, babbo, lo spezzatino. Ti dico, beh, dà anche il colore bello di quella carne genuina che è lui. Manco un macelleria venne. E vanno sempre lì, avevano come il Bigliani quella compagnia. E li cantonare la busta delle regalelle a chi si utilizzano per i tali più. A me mi hanno regalato un'occa, ma per spennarla me ne ci dà la gamba, l'ho messa a bagno nell'acqua calda, quelle pelle erano dure, le ho dovute tirare con la pinza e ho fatto una lancia alla lancia. Buona riga, un bel di, come si dice, di barzetta avevo nella preparazione, tutto lì, da buio una mucca che è in pentola, a mi dici Monni e... ma se che uno c'è il cortile, capito? A pulirla fuori, ma quando sei in casa fai piume e tutto quanto, invece ne ho messo l'acqua calda, con l'acqua calda ne ho ammorbidito le piume e ne sono uscite così, però le penne erano dolci di lavanda, dove tirarle o la pizza. Sì, mamma, dai, lì si è appensato un po' carino. Franco, e tu cosa, no, Luca? Selvaggina strana in agguato, no, non è recuperato. Ma che è selvaggina qua? Cosa è la selvaggina strana? Niente, mangiare, niente. Ma sì, sempre no, da me, sempre bugiardo. Ma qui la batteria, la televisione e prendi a che cosa? Io mi sono uscito già alle 3 perché un'amica mi ha chiesto una cortesia, devo forzare la macchina alla Renault a fare il sagliato e poi siamo stati in giro insieme e poi alle 4:30 siamo andati e l'abbiamo ritirata. E sono alle 2:34 mi ha fatto i massini, ho detto no, non me le faccio le pastine, le faccio solo tagliate, le pastine le fa da un'altra parte che paga 80 euro invece che 150. Un meccanico secondo me la furti, anzi se la furti in Fiat in assistenza si spenna. Lì è l'assistenza, Kappa, no, allora io avevo portato quando era in garanzia e tutto la 500 Abbas, il primo tagliando ho sbagliato a 680 euro e il secondo a 230. Se è andata bene, a me 350 euro con la tipo che sono pagato 350 euro di italiano, hanno messo filtro antipulline, una lampadina, non so che cosa, si hanno inventato mille macchine. E mi è arrivato pagato, mi ha assultato, ho detto grazie a uno dalla prossima volta al mio meccanico, 150 euro mi fa il tagliando, metti un rumore e tutto. Non ci hanno cambiato niente già, dove deve andare il giambà? Che una volta a me sono andato prima per l'anno, sono andato quando ho fatto la... avevo la 1, l'avevo comprato. Ma ancora un altro l'hanno giambato, lunga, ma ancora un altro. Non mi piace come stai uscendo, fratello, devo dire, la radio non mi piace. È tutta... Che microfono stai usando? Come che dico? E mi c'è tanto a sto usando, con la 440. E allora sei troppo vicino al microfono, è troppo alto il volume della modulazione. No, è normale. Non va tutto per così già. Adesso sto uscendo bene, non è come poco fa, vero o già? Ehi, appena, boh, io lo sento un po' troppo forte rispetto agli altri giorni. O magari è così, magari la modulazione è un tipo. Però già è comprensibile, già si capisce. Ma si pure, come si dice, in detonazione, dopo parte bene, però poi rimane un po' più, tipo troppo a camera. Troppo a camera. Eppure non sono né alto di potenza, niente, lo tirai è basso, non so il motivo, aspetta, prova a cambiare il microfono a vedere. Magari non lo so, magari sto parlando un po' troppo forte, a mozziata, dimmo, e allora va, fa quella modulazione, perché quando parla un po' più rilassato è più bello, più dolce. Ma infatti non so se non lo sa, ma con quei microfoni si parla molto tranquillamente, piano, rilassato, se no ti fa strappare. Fa quell'effetto, infatti inizia a parlare tranquillo e poi sembra che strappa, che va buono, non so, così garreggia brutto. Aspetta, effetto com'è Gianni? Perfetto. Cosa? Perfetto. Ecco, questo è l'MC60. Poco fa avevo l'80. No, vabbè, l'MC60, ma il processore è inserito. No. Se inserisco quello allora non mi capisci. Prova a farmelo sentire che ho un processore inserito. Come c'è un processore inserito? Figliata, ti rovina la modulazione. Forse è troppo, secondo me è troppo alto il mic gain, fra. No. Ti distorce tutta la radio. Siccome si distorto. A me mi dà questa impressione, Gabi. E quando attacca lì sul Gozu rimane troppo forte, però senta, si sente bene, anzi magari se parla un po' più delicato si sente ancora meglio, perché la modulazione rimane più dolce, più bella diciamo, però magari sta parlando magari anche un pochino vicino e magari quindi va un po' a caricare un po' troppo, però con questo è leggermente migliore di quello là, più come si dice, più tranquilla la voce. Io sto parlando poco che basta, poi sto parlando a 40 centimetri dalla bocca. No, già va bene così, già va bene, ma per poco fa rimaneva troppo forte, mi balliva su. All'inizio sì, perché mi ho dimenticato il processore, che ce l'avevo in mano laterale. Gaffa, già va bene, dai. Comunque, mi ho acceso la stufetta poco fa, a chiedere come stanno a fare l'usireno, di murare l'uventore, l'umido. E niente, sicuramente domani farà un po' di sole e molta nebbia. Sicuramente. Speriamo che sia finito questo fatto del pellet. Sì, babbo me l'ha comprato stamattina alla Conad, mi ha preso 3 sacchi a 7,40 per bar. Non lo so, perché ne ho ancora ne ho un bel, e non ci sono andato a cercarne. Sì, perché a Sassari in determinati punti è tutto garo, e non vedo 50, ma io ti sono macchio. Infatti già gliel'hanno scritto di magna sì, oppure che già arriva il bel tempo a subaccarsi da qui. Hanno fatto vedere a Oristano, hanno fatto vedere che c'è un campannone grande, enorme, pieno a zeppo di bellet, e lei dice su di sé che non viene in Sardegna. L'ho visto fra il video di quella signora, e sicuramente è quello che hanno portato anche oggi di nuovo dai cinesi, che vede l'altro articolato. E chi si rubaga nel minimo 4 euro 4,50 euro, da buono che ne 9,50 euro, una mafia che va fa il taggoggio che è indescrivibile, e non fanno nessun controllo. Da voi due entri in un negozietto alimentare, come ti si dice, padronale, e magari ti fai un pane di imbuttito e non fai nello scontrino, perché di buone le milioni di euro di multa, ma non andi insieme a un governo dei disraziati. È vero, purtroppo è così. Purtroppo siamo in un punto critico. Quanti Gianni Sassari? Gianni, non più lui. Ma le vette che si è allontanato. Gianni. Così è già. Purtroppo siamo arrivati a un punto critico. E allora, basta tutti i gatti imbalzinati con questo Sanremo. Ma io dico una cosa, ma se i cinesi non se l'hanno gonfiato sul programma, vuol dire che a quel motivo è, no? Però già ne giochi. Nuova italiana, nuova cinese. Ma i cinesi gonfiano il gruppo dall'Italia. Buonasera, come va? Avanti, chi è? Buonasera, Giovanni, qua vicino a voi. Ciao Giovanni, ben ascoltato, compagnia di cosa, di San Pio. San Sì, buonasera anche a te. Come va? Sto bene. Gianni! Ah! Gianni, non lo sì! Ehi, salutato, ciao Giovanni, mi senti? Aspetta, come è forte? Com'è? Tutto a posto? Ciao stanco! Camaino! Ciao stanchino! Non cosa per letto non è che sto guidando, mi avevo mi posto proprio di brunino, quindi questa maniera è una prossima che tu puoi guidare. Poi due stacco. Che aspetta. Ciao, è un'imbriaghera, vedi, tu hai un'imbriaghera che fai prima. Non posso bere, manco quello posso fare. E se voglio non lo posso fare. Una specie di allergia con l'alcol, non posso fare neanche quello, però l'avrei fatto. Allora è un casotto, vero già? L'unica è quella, mica tu hai problemi, ho cato di intendi mali. Si bevi una bottiglia di birra, ma se non lo può fare, quella è la ragione. Se non vino puoi bere stanco. Non è un tipo di niente, né vino, niente, nulla che abbiamo. Devo stare attento anche ai cioccolatini, quelli che contengono liquore, la roba lì. Cazzo! E che cosa ti fa? Ti fa diventare rosso, cosa ti fa? No, siamo a tua terra e mi devono portare all'ospedale perché scendo in coma, vedi tu, già niente. Chi cattera? Come si vecchia l'alcol a luna? Sì, guarda, si può vivere anche senza, no? Non è che c'è un problema così, no? Le tengo più alla medicina. Poi un po' una piccola influenza già passa, lì un po' di caldo. E come si gira di come pure, ci verrà lasciato un cuccone con la pomaccia, mi dà un po' che la grande. Cappagappa. Vabbè. Io invece gli zuccheri non posso mangiare, l'alcol vabbè, nessuno lo potrebbe bere. Io ho letto un articolo dei dottori che dicevano che il nostro corpo accetta zero di alcol. Non bisognerebbe bere manco mezzo bicchiere di vino, nulla. Pensa che il vino fa bene qua, fa bene al sangue, fa bene. Non dico di uno di ubriacarsi, un vicino di canto è, però anche se ti bevi un bicchiere di vino mangiando non ti fa niente, anzi fa solo bene. No, io lo bevo bevendo. Che meglio, che quella bellezza, no? No, io non ne bevo vino, nulla. La birra sì. La birra con la pizza, una lattina me la scolo. Chiappa, no, io preferisco il vino alla birra. Va bene, dai. Ciao già, ci sentiamo che devo scendere giù. Ci sentiamo, magari domani. Ciao Gianni Ciampini anche e ciao Giovanni. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte. Buonanotte Fra, ciao, ci sentiamo, dai, buona carica. Avanti sta. Lo riprendi già. Ehi, ciao Fra. Buona ricarica, buonanotte e buon tutto. Già ci sentiamo magari alle prossime se coincidono gli orari. E andiamo a vedere. Comunque all'amico Giovanni basta bersi un bicchierino di distillato, un firuferro e il mono in moto, come se è un tir. Così lascia fare a ripidare in coma. Non intendo che un po' di roba alcolica, tu devi farmi le firuferro. No, non avevo capito bene. E allora basta bersi una fanta o una Coca-Cola fresca e già va bene. Meglio un tè caldo con l'influenza. E non so, purtroppo ognuno non c'ha nessuno. A lui le fanno male gli alcolici, capito? Ha detto che entra in coma se beve gli alcolici. Gaffa. E allora se c'ha tipo qualche influenza deve rimanere un po' caldo, qualche, come è tutto, se caldo, qualcosa di tisana calda e cercare di riprendersi un po' di forza. E la busi bumania pure mezzo buchi, dura, si virà. Io non gioco in campagna, probabile che ce le abbia. Non ti ha capito. Non voglio che da buio, cioè che devo andare in bagno correndo giusto. Dai, mi faccio un po' di bianco, intanto rimango una scorta dopo. Buonasera, buonasera, sono rientrato, buonasera a tutti. Gianni? Yes. Io sono Antonio, lo mio forse. Ciao a tutti. Cosa hai attaccato? Non è pure da zitto. Si è messo sotto accento stanno. Ciao Giova. No, è Gianni, Giovanni Stanco è in quell'X. E Gianni Sampi. Ho salutato a mio amico. Ciao Antu, come, sto bene. Già sta valendo in me. Penso di sì. Aspetta, ieri ce n'era un bel mio, ce l'ha la nebbia pure. Ma stamane quella nebbia, è andato riuscito. E il cambiamento dal caldo al freddo lo fa, la temperatura. Speriamo che ponga a gaggio, che c'ho freddo, a me mi secca, mi sto facendo a mare. A me mi fa soffrire più il caldo del freddo. Io soffro più col caldo, mamma mia, sono sempre a petto nudo e montato in casa perché non riesco a stare. No, io so a cosa. No, io, come si dice? Non sto bene, sto bene. Anche i muscoli mi si rinascono. No, io il caldo lo soffro, dico la verità, mi fa venire attacchi cardiaci, devo stare spogliato perché quando c'è molto caldo non lo sopporto. Infatti me ne vado sempre al mare, me ne vado fuori a prendere aria la sera, e l'estate io esco sempre. Io sono abituato, perché sono abituato a lavorare fuori, soprattutto l'estate, quindi non mi fa niente, sto meglio anche di fisico, sto anche meglio, così mi fa stare male, mi fa stare il freddo. A voi gioco sempre, a bomba gioco. Tu vai la pelliccia, pure sotto la maglietta, anche tu. La pelliccia, appena dica che cosa. Tanto, che cosa, se ne buchi la maglietta fai il colpo. Yogi! No, ma alla parte scherza, adesso io sono un po' robusto, sono un pochettino robusto, però il caldo l'adoro, sa tutti i durori che faccio, cioè, mi ha giubilato da chi c'è un cazzo di ramotto, ma vabbè, lasciamo perdere. A me mi distrugge il freddo, io da dicembre a aprile mi fa zappito. Ma il freddo si può rimediare, io ho condizionatori, ho mille cose, mangio un termosifone, il freddo si può rimediare, o mettere a caldo dal climatizzatore, oppure uso i termosifoni, la casa è sempre bella calda. Ehi, a quello si chiama cavolo, l'inverno, guarda, è una cosa che però ultimamente da quando ho avuto un problema alla schiena e che magari mi muovo poco, se no non mi avrà nuda né un gas né un freddo, a chi sempre un cinghialetto in giro, senti un malandrino buono però. Ma anche io. Io anche per lavoro sono stato molto all'intemperie, perché facevo le consegne, quindi immaginati tu, c'era giubilato di caldo e di freddo. E infatti è quello, è un bel di volte il troppo strappare ti porta poi a un limite che magari non ti rendi conto nel momento, ma poi a lungo andare dici cavolo, chi sei tutto un freddo badi di chissà sera, mi chiede l'ultrafani di l'altro pomeriggio e via dicendo. E vabbè, ma almeno sono percorsi che ormai sono così. E la buru mi dice che devo andare un conto di zia Isu. Ma che, uia. E così è. E Giova, invece la mattina tieni besi che andiamo dentro e ti buono a fare un po' di gioco e ti buono in moto tutto un altro scheletro e via. E la buru te la fai. due tuffi d'aglio, due battacchi in mezzo, buona ridda. fare una gara, ma si fa la bimba, poveraccio, fa una gara di andarci. Ma si abita in zona di campagna, da che un tempo via ragazza da che cosa? Il buio di gioca via ragazza. Io prima ci andavo, roba di cucù, una volta giù fatto benzina a usi, chili, via. Due bussi da giù fatto di cucù, di mani, non ci ho fatto via 12 a usi. Però poi sono scoperto una cosa, che non si potevano prendere, che era proibito. E perché? Perché avevano messo... Dopo mi ha detto un amico, in casa non ti hanno da me che non ti hanno acciappato, ma lo sai che lì solo i residenti possono farlo. Perché è una zona di comunque, però dice che proibiscono a farli a altre persone se non sono residenti. Allora è tipo un'ordinanza del sindaco di Varuzzi. Sì, se ti trovano ti mettono la multa. Ciao Eugenio, va. Tutto ok, Eugenio. Ciao Eugenio, buon pomeriggio e ben ascoltato. Come vi... Pomeriggio. Caro. E che siamo di l'ultimo sopra il pomeriggio. Sapete, mica siamo di notti e non di pomeriggio. Vabbè, di notti è da ridisi e mezzo poi. Tanto di sera. Ah, così è, di sera inoltrata. Di, sono già alle 7:30. Manca un po' gassi di notte. Perché cosa c'è? Ma io lo sai che non la sto guardando, non ho pazienza, poi ho sempre paura di disturbare di notte, ho che ne ho bisogno, io stavo assinattato. Per venire a me che attacco l'impianto, cazzo è, ne parlavamo vitalizzamente. Forza, infatti la Ghisu mi ha giudito, seguì silenzio, alle 6 stavo ascoltando il Queen una volta, mi ha alzato sopra e mi ha detto, ma dove si chiude la discoteca, già ma sarà Grista che non si è casa di là, poi sono alle 6. Ma se mi sta facendo sentire la musica, io se non ne voglio sentire la devo sentire lo stesso. E l'ha giudito, e se vuoi silenzio c'è casa serena, oppure mi ando in via San Paolo, sai che ti vedere il silenzio. No, la metto a manetta, basso. Vabbè. Quindi ci sono le copre, chi deve cantare? Quando lo disturbavo era perché c'era l'antenna della televisione pratica, quando sono in tecnico a controllare è rimasta in mano. E allora stavo dicendo che era più di barattino. Mi hanno mandato il tecnico a casa, non ce l'avevo fatto con cui uscivo. E naturalmente io l'ho fatto vedere la panica omologata, ci va con 5 watt, anzi 3 watt, non 5. Purtroppo c'è sempre gente che vive e non lascia vivere, poi dice l'ultimo arrivito. E accudito, non abitava anche casa sua, era a casa di Razzuzza, la Issa, e sta a rompere le palle. Sì, e no che quando qualche volta ti ribuni a bomba, nessuno mi rompe di cazzo che stanno facendo l'impianto, qualche volta che lo collego. E ti posso assicurare che fate un casino della di Gesù Cristo, gioca, trema lo pavimento. Non lo so, c'ho anche cantato a casa tua, non lo so. Ori la CDC a mille, Antonio. Oh, ci abbiamo fatto una serata con Antonio di canto a casa sua, a posto tutto l'impianto, ma io c'ho impianto, è impianto da sala, proprio da fare karaoke, roba, c'ha tutto mixer, casse grosse. Dimmi tu che ci sei, Matteo. Sub, c'ho pure. Sì, ho fatto da pacco, per lui c'è già voti di la lampada sulla veranda con che ci impianto. Ah, coordinamento in campagna? Diversa da Pacocirco grande, c'è un mix e di canale. Sì, no, non è solo quindi deve andare, no, impianto. Pure roba sostanziosa da sotto, cascivone. Perché non te che ho il mixer, poi non ho cassa per farla andare. Aspetta, cioè, sono un po' di cassa. Beh, tieni conto che mi chiedo per fare sempre la misura giù. Ma cosa sono? FBT, cosa sono? GBL. Queste sono buone. Ma se GBL sono buone, sì. Guarda, anche negli impianti di casa GBL dice sempre la sua. Sono venuto a Riva. Mose, anche Mose sono buone. No. Sì, per impianti medio impianto, ok. Se parliamo dell'impianto che deve suonare un bel forte, sì, la qualità e tutto, sì. No, no, medio impianto sì. Ma se parliamo di un impianto che devi suonare, devi via GBL, devi via DB, altre marche così, FBT, RCF, allora siamo fabbricanti di roba buona, c'è roba che spinge pure, ti dà voce. E le Montarbo, le conosci anche tu? Grandi le Montarbo, buone, sono molto molto buone. Io come mixer ho il mixer della F, conosci? Cosa è? Elberg, cosa ha detto? Non ho capito. Hertz, H-E-R-Z, Hertz. Che è buono. E auguria, io c'avevo dell'Hertz, c'avevo tutto l'impianto della macchina, tutte le casse erano Hertz, e il sub era Hertz, l'amplificatore era Alpine e lo stereo era Alpine. Tu cava che cosa amara, vibrava vitrica. Non è che invece Aliat con cavo si chiama. No, Hertz non li ho mai visto però. Di cosa non hai mai visto? Il mixer? Sì, sì. Hertz non mi è mai capitato di vederlo. Ho visto Yamaha. Vabbè, noi l'M32 avevamo, Midas, ho visto la Win della cosa, Bering, la Win, che è un bel mixer, poi poi c'è un'altra marca buona, cioè, cazzo non me ne ammentavo tutti i canti, audio design, ma tu vici un mixer, il sub è buono, è Celestium, RMS non le fanno più, RMS? E lo ricordi che leggevamo anche per fare il pannello nella mano? Non ne ho visto in giro. Hertz forse. Erano RMD, toccavano bene. Ma chi è quello di Tarzan? Proprio una fabba. Gappa. C'erano quelli dell'acciare, c'erano pure. E la GBC deve essere. Sono buoni, io li conosco. L'acciare fa quella bella cosa. Allora l'acciare se l'ha presa la Hertz, sapevi? Perché l'acciare non esiste più. Ti volevo dire, ma chi è quello che mi sta arrivando basso basso? Sarà, non lo so se è stanco. Stanco, prova a parlare invece sei tu. Non è che sono io, no? E Gioia. Poi c'è Gianni, che adesso facciamo venire avanti perché è in parcheggio, avanti. Ehi ragazzi, Rogero, l'acciare come impianto di stereo era buono. Io per esempio avevo delle acciare nell'auto e come subwoofer avevo un Celestium da 40 e poi bumpavami. Amplificatore ci avevo Il primo era un Audison e l'altro era un Boss, e non lo so se era di marca buona quello Boss, comunque pompavano di brutto. Tutta la gappotta drenegava quando buoniva la mattina innanzi. Bello, bello, bello, quando andavo a fare i raduni, sempre il trofeo mi portavo a casa. A me me l'ha fatto in macchina, me l'aveva fatto Scarpa, all'epoca quando faceva gli impianti autoradio, me l'ha fatto l'impianto Scarpa, che io lo conoscevo perché faceva Winsor assieme. Mi avevo fatto questo impianto per fare una gara. Eravamo partiti a Padova, mi pare, a poi a Padova a fare l'esposizione dell'impianto che mi aveva fatto. Io ho fatto da Pudiche l'impianto, mi ha fatto un bellissimo impianto. Pudiche bravissimo, me l'ha fatto sul camper, io sul camper ho un bel impiantino, e mi ha fatto lui sul camper. Io non ho giocato, sennò me l'avevo fatto io, è che per via del passeggino così non posso farmelo, se no la dica mi fa capo, oia, mi posso impianto la paura. Ho trovato buchi per passare i fili e cose, lui ha avuto, gli ha dato anche mattare a lui, mi ha detto che guarda, dice è stato difficile trovare il posto per passare il filo, però già l'ho trovato perché ne ho messo quei cavi grossi, la pizza. Avete parlato in due, Gianni e Antonio. Ho detto che non ne ho voglia io, sono un po' poltrone. Se no la di che mi fa capo vuoto un impianto che si tremura già tutta canta la macchina. Io già li so fare già. Non sei poltrone, sei Gabriele! Raga! Ehi, io non vi ho capito, avete guardato tutti uno in attallato. Senti, stavo parlando io, avevo abitato da là sopra. E cosa vuoi che ti dica? Vuol dire che devo seguire fino a San Martiano in l'aria e ci sono intrecciati. No, vi ho salutato, ciao a tutti, dai, io sto andando. Buon continuo con il suo, ciao ciao. Sì, già, scusami. Come ti si chiama? Al tuo cucciolo. No, dai, se si chiama. No, altro non c'è problema. Noia. Comunque stavo salutando, dai. Perché sono a portare giù il cane, dai. Va bene. Ciao Antonio, ben sentito anche se in ritardo. Ma ti pare di orientare, ti paghi la multa. Ti devo pagare un bit. Buonasera, ben ascoltato, dottore. Ciao Gianni e buon proseguimento. Antonio, fa girare. Cappa, dai. Ciao già. Ci risentiamo alla prossima. Avanti Porto Torres. Ciao già. Ti dimmo alla prossima se coincide tutto quanto. Ciao, buona serata. Avanti Giova. Ciao già. Cappa. Giova, cosa stai dicendo? Avanti. Oh, salutando a Gianni, che mi sta portando in casa. Ehi, no, perché c'è magari un po' di... Adesso già ti ho capito. Ok. Ma io questo non lo sento. Chi è? Antù? Giovanni, vabbè, con quattro fatte. Magari si alza, adesso vediamo di far alzare l'asticella. Si alza appena l'asticella, già lo senti. Giovanni chi? Zona di Buttanca, di là. Non lo so, non arrivi. Arrivi quanto bisogno. Lo so, adesso bisogna dare un pochettino di potenza. Perché veramente sta uscendo omologato 4 watt. Si dà appena già lo intendi. Lui lo sento felice. E vabbè, lui c'ha 50 watt. Chi è che ha 50 watt? Quanti watt vai? Sì, io sono scendito 8 watt. Non è mai 4, no, però. Anche perché questo baracchino non è da altri. L'ho fatto aumentare, ma 8 watt. Ma lui ne ha 4. Sono molti, molto di meno, E 4 watt più sono? Ti maribocco. E una giusica. Sì, stacca. E 5 watt con Midland 68 sto facendo io. Oia. Riprendo dall'altra stazione, va? chi è che sta seguendo l'altro, lo stai seguendo Sanremo? No, non so, ci sono i cartoni animati del bambino. Non lo so. Cioè, te lo stai seguendo Sanremo? No, non mi interessa. Da inizio interessa bene. Già iniziato, da ieri mi sa. Ecco, questa è la quarta serata. Ah, sì. La massa di corrotti, vedo, che dava di vedere i gocci, ti dava i denti. Io ho visto la seconda puntata dove c'era l'hamburger. Ciao! Ma quindi... Ma ciao, che manca vista, io sono più scemo. E comunque l'ha visto Garibù. Ma quando mai, è matta. Proprio una scena cristinetta. Ma vabbè, è simpatica. Ganana, cosa vuoi ti dire? Ganana, ti fa chignocco. Bene, da che punto di vista quella, guardi. Andava per campagna. Pure per campeggio. Beh, signore, io vi lascio, ci sentiamo. Grazie, la chiacchierata ti chiudimi domani. Ciao. Eugenio, di Porto Torre, ci risentiamo, ciao. Ciao Eugenio, buon proseguimento, buona ricarica quando la fai e buon tutto, già ci sentiremo alle prossime se tutto coincide. Ma io più o meno già ce l'ho sempre quasi accesa la mattina alle radio, anche il pomeriggio, dalle 6 in poi il pomeriggio, dalle 18 in poi già riaccendo. Prima mi posso una benecchella, mi devo ricaricare tutto quanto il sistema di USB. Andate, ciao e buon proseguimento. Ciao, buonanotte a tutti, anzi domani sentiamo a chi si occupa la gurugante. Sentiamo domenica sera, ciao. Ma che alla prossima che mettiamo qualche vitamina magari mi riesce a sentire. Sì. Bisogna darli full gas. Va attacca lì la turbina di un gozzo, di un motore, di un Volvo Penta, vedi si pompa e... Bello, motore trattore di bomba. Navi grinito, carino, e vabbè dai, piano, magari allunghi pure un metro di tubo d'antenna e vedi che già, ma poi con le giornate belle già vedi che c'è più segnale, più propagazione, anda più bene. Guarda, ho già, va una ricezione, il Sirocco, che è una cosa paurosa. Poco di punta di voi, fatevi anche lui. Cosa Giova? Non ti ho capito. Detto, aggiungere l'antenna no, è già 5 metri, io faccio di più all'atto di là che dovrebbe essere. Cazzo è proprio una vitamina di vita, mi voglio giù a dare una città rete, mi chiedo. Ehi, vabbè, allora busca una locomotiva meno rida, dai miei attacchi, che li dai disegnare, a vedersi carboni attivi come stanno a partire, Allora, gli iPhone Man Antonio che ti viene con il fatto buio. Dove sei Anto? Vivo ingegneria di tecnologia e elettronica. Già ribunimo umano, guarda che sa cosa si trasforma, fa performance. Allora sì che intendi di matracchi. Cazzo va una ricezione che si rucco con una cosa paurosa per essere in basso. Ehi, già lo so, perché qui c'è rispecchia sul mare, quindi quasi da, come si dice, da... Ciao Antonio! Da propagazione, mi. Buonasera Marino, buonasera. Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao anche Giovanni. Giovanni avanti, buonasera, ben alzato. Bene, mi ascolti.